Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. tell you that she wants you to ask her to the Enchantment Under the Sea dance. Really? Oh, yeah. All you gotta do is go over there and ask her. What, right here, right now in the cafeteria? What if she said no? I don't know if I could take that kind of a rejection. Ci siamo già ascoltati due brani da quando è cominciata la seconda parte di Eclettica, da qualche minuto. Beh, d'altronde è così in pratica tutte le volte. La voce di Giulio Caperdoni che state ascoltando la sentite, direi, a seconda parte abbondantemente già iniziata, dopo che vi siete ascoltati qualche brano, magari anche uno sprazzo cinematografico e magari anche un incipit. Quest'oggi solo uno sprazzo cinematografico, l'incipit ha ancora da arrivare. Ci siamo appena ascoltati Film School, band statunitense che incide per Beggar's Banquet, ed è la seconda band Beggar's Banquet di quest'oggi, visto che gli Alike Trains erano già passati nella prima parte di Eclettica. Da Hideout, quello che è il loro nuovo album, il pezzo passato in Eclettica aveva per titolo Dear Me. Invece Eclettica si è aperta con un interessante gruppo italiano, si chiamano Kiddy Car e hanno fatto della Val di Chiana la loro base. Un nome della band che racchiude l'intenzione di raccontare un mondo adulto ma con sguardo infantile in viaggio su un'automobile a pedali, Kiddy Car appunto. È un disco molto interessante, loro, e da questo disco sono andato a estrarre un brano che è molto vecchio, era stato scritto quando la formazione parecchi anni fa aveva addirittura un altro nome, Criminal Beat, e l'anno era il 1998, però è stato inciso Human Logic solo qualche settimana fa a nome Kiddy Car. Per poi passare ancora a Stati Uniti, ad un artista che già ci siamo ascoltati la scorsa settimana, una nuova produzione per la Dead Oceans, per la precisione il 23 di ottobre è uscito l'album dal titolo Pride. Lui si presenta con uno pseudonimo, Phosphorescent, e la traccia che ci ascoltiamo è la numero 4 delle 9 in totale. Si tratta di Wolves. Thank you. raindrops at night, they are beautiful. Blazing with light is the widest and the tallest and the biggest. All muscled and fine when she runs. Mama, I tried to put them out. And Mama, I know you're too wise to wait till those wolves make night. Cammina a passi lenti lungo l'avenida Madero, lo sguardo smarrito nel cielo e il portamento altero. Quasi sfidasse la curiosità dei passanti e le risate dei ragazzini che la indicano irriverenti. L'aria svagata, la noncuranza che si impone per difesa, contrastano con la fierezza dell'incedere e la bizzarra ricercatezza del vestire. Il vezzo del fiore infilato nella scollatura generosa, i capelli costretti a furia di sforbiciate a seguire una moda dimenticata. Ogni dettaglio del suo aspetto la rende ancora più grottesca agli occhi degli sconosciuti, che notano i colori sgargianti, la povertà delle stoffe, il taglio antiquato e la consunzione che sta per ridurre i suoi vestiti in stracci. Questo era l'incipit di Nahui di Pino Cacucci. I'm the boy, and you can fire to me now. I'm the Extraterrestrial from the planet Vulcan. Un suono arrugginito percorre le due stanze e fa alzare di scatto il giovane curvo sul tavolo della cucina. L'improvvisa attività del campanello esterno al cortile ha il potere di precipitarlo nell'inquietudine. Si avvicina guardingo alla finestra. Vede lo specchietto retrovisore che inquadra perfettamente l'atrio, da cui qualcuno gli sta procurando quella fastidiosa emergenza. Sistemato in quel modo, con una staffa imbullonata al tubo esterno del gas, lo specchio gli permette di studiare l'aspetto degli intrusi prima che superino il secondo portone. Questo era l'incipit di Outland Rock di Pino Cacucci. Ich bin der Stricher Junge mit der Raucherlunge. Ich gehe am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Puppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Puppe raus und mach die Gage aus. Mach mich an und wirf mich weg. Steck mich an im Straßendreck. Mach mich an, dann und wann. Vergib das Feuer, ein kurzes Abenteuer. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem eine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Ich bin der Stricherjunge mit der Raucherlunge. Ich geh am Bahnhof lang und steck mir Kippen an. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus und mach die Gage aus. Und wenn ein Wagen hält, dem meine Hose gefällt, hol ich ne Fluppe raus. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 2, volume numero 3, indice, Le Fauve, Bob Dylan remixato da Mark Ronson, Walkie Talkie Etherea Post Punk Band, Shocking Pinks, I Like Trains, Ungdomsskolen, Kiddy Car, Film School, Phosphorescent, The Marionettes, Black Kids. E per chiudere, ci siamo ascoltati quello che è l'ultimissimo album degli Stereo Total. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.